nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 27 marzo, il sole in regione è sorto alle 6.58 e tramonterà alle 19.29 potenza dell'ora legale. Venerdì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Vale 60 milioni di euro l'orticoltura del Friuli Venezia Giulia, protagonista dell'apertura di questa puntata, e sono sempre di più le aziende che operano nella vendita diretta, il famoso chilometro zero. Agricoltura e guerra in Ucraina, sono pesanti le ripercussioni sui prezzi di concimi e fertilizzanti. Nella rubrica del bio gli scenari internazionali che mettono a rischio i primi passi della transizione ecologica in agricoltura, in quella dedicata al vino ancora norme e limiti sull'arricchimento del mosto. Torneremo nell'orto per il via ai lavori di semina e trapianto, poi in cucina con una ricetta di quaresima, i bigu in salsa. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante con una breve nota di climatologia locale e proverbio friulano chiudono la puntata. Per gli approfondimenti che Vita nei Campi sta dedicando da qualche settimana ai settori dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia, siamo arrivati alla orticoltura. Ci guiderà in un'analisi di questo settore Costantino Cattivello, vecchia conoscenza di Vita nei Campi, che oggi ci dà una visione d'insieme di che cos'è la orticoltura in Friuli Venezia Giulia. L'orticoltura professionale regionale non può certo vantare i numeri di altre regioni d'Italia, anche con termini come il Veneto, ma comunque ha delle caratteristiche interessanti e per certi versi anche peculiari. Da una recente indagine risulta che in regione la produzione lorda vendibile orticola si aggiri attorno ai 60 milioni di euro. Si coltivano circa 600 ettari che salgono a un migliaio se consideriamo anche le colture ripetute sullo stesso terreno. Si tratta di produzioni fatte in larga parte in pieno campo, mentre quelle in tunnel freddo superano di poco i 70 ettari. Se analizziamo l'evoluzione delle superfici negli ultimi anni, vedremo che queste sono aumentate, ma limitatamente, tanto che le nostre produzioni non coprono più del 18% del fabbisogno regionale. Due elementi caratterizzano, a mio avviso, le dinamiche produttive degli ultimi 30 anni. L'aumento lento ma costante delle aziende orticole biologiche ed il venir meno dei tradizionali poli produttivi. Se un tempo la produzione era concentrata nei distretti di Fiumicello, Tavagnacco, Ribis di Reana, Fossalon, Grado e Zoppola, negli ultimi 20 anni si è assistito alla stagnazione o declino di questi e all'emergere di altre aree produttive come Casarsa, Aquileia, Cordenons, Tricesimo, Porcia e la Bassa Isontina. Vi sono infine zone dove resiste una sorta di orticoltura eroica, interessante non tanto per l'estensione delle superfici ma per il tipo di produzioni orticole che vi si fanno. Penso in particolare all'area triestina e alcune zone collinarie e montane pordenonesi e udinesi. Le maggiori produzioni a ciclo primaverile estivo non si differenziano in maniera sostanziale da quelle del resto del nord Italia e sono rappresentate in pieno campo da asparago, zucca, zucchino e lattuga, mentre nei tunnel il pomodoro da mensa, il peperone e la melanzana la fanno da padroni. Nel ciclo di coltivazione autunno-vernino invece le specie più coltivate sono i vari tipi di radichi, dai tipi veneti a quelli locali, i vari cavoli, verze, cavolfiori, broccoli, sia da infiorescenza che da foglia e il porro. Un ulteriore elemento che caratterizza il comparto orticolo regionale è la modalità di vendita dei prodotti. Negli ultimi 20 anni si è assistito a una graduale diffusione della vendita diretta, conosciuta con vari appellativi, quali vendita chilometro zero, a filiera corta. Questa modalità di vendita era del tutto marginale fino alla fine degli anni 80, ora interessa circa 3/4 delle aziende ed ha alcune implicazioni importanti, quali una elevata diversificazione delle varietà offerte, spesso delle tipologie più apprezzate sul mercato locale, la coltivazione su superfici contenute, le dimensioni aziendali compatibili con l'impiego in massima parte, se non esclusivamente, di manodopera familiare. Infine, un accenno alle forze lavoro. Il ricambio generazionale è in corso, anche se è lento. Le nuove leve in molti casi stanno portando elementi innovativi, non di poco conto, come un'attenzione particolare alle produzioni biologiche o a quelle fuori suolo, ma sempre con una visione rivolta ad una gestione più oculata dei mezzi produttivi e non ultima l'apertura verso canali di vendita online. L'assedio russo all'Ucraina, lo sappiamo, sta avendo ripercussioni pesantissime sull'economia e anche sull'agricoltura. Oggi siamo con Davide Bricchi, direttore del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, fatturato di circa 134 milioni, oltre 10.000 clienti, leader di mercato nella fornitura di mezzi tecnici e servizi per l'agricoltura. E con il direttore Bricchi parliamo del rincaro di concimi e fertilizzanti. I prezzi sono alle stelle, perché? Le quotazioni dei fertilizzanti sono almeno raddoppiate nel corso dell'ultimo anno e sono dovute essenzialmente all'aumento dei costi industriali e di logistica, oltre che a una certa dose di speculazione. Il tema si fa ancora più serio se parliamo di prodotti a base di azoto, quali nitrato ammonico e urea, in quanto in questo caso siamo forti importatori anche dai paesi coinvolti nel attuale conflitto. Pensiamo che già all'inizio della guerra Putin ne aveva bloccato le esportazioni. Pertanto per questi prodotti si parla di prezzi mai visti, triplicati rispetto alla scorsa stagione e così anche di un possibile rischio di esaurimento scorte. Quale quota di sostanza è di importazione, in particolare dai paesi appunto coinvolti nel conflitto? Ma noi come Italia siamo forti importatori di fertilizzanti chimici. Se pensiamo ai dati dell'anno scorso, circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di fertilizzanti sono state importate in Italia a fronte di un mercato di circa 2 milioni e 8. Di queste circa il 20% arrivano da Ucraina, Russia e Bielorussia. Per un'azienda agricola friulana di medie dimensioni, concretamente qual è la ripercussione su prezzi, produzione? Ma una delle colture più colpite e più importanti per la nostra regione è sicuramente il mais. Una concimazione oggi può costare all'agricoltore dai 7 ai 900 euro ad ettaro, a fronte dei 3-400 dello scorso anno, quindi più del doppio. Per contro possiamo tranquillamente dire che produrre mais senza azoto è praticamente impossibile, perché porterebbe portare anche a un azzeramento delle produzioni. Ma è un'ipotesi estrema che mi sento di scongiurare. Anche come consorzio ci stiamo muovendo per avere le forniture necessarie per soddisfare i bisogni di tutti. Quali sono le soluzioni sul medio-lungo periodo? Si può arrivare ad essere più autonomi? Ma allora, innanzitutto gli agricoltori oggi sono molto disorientati a questo momento dei prezzi. Chiedono cosa seminare, come seminarlo, che prodotti usare. Dobbiamo essere molto franchi, dal punto di vista dell'autonomia dei fertilizzanti in Italia direi che è impossibile raggiungerla nel breve, nel medio termine. L'unica strada è quella dell'innovazione, quindi trovare soluzioni che permettono di produrre di più usando meno concimi. Il messaggio però che mi sento di dare è che oggi bisogna produrre di più, ce lo chiede il mercato, ce lo chiede il paese. E la crisi internazionale, ci dice Cristina Micheloni, rischia di pregiudicare anche i passi che l'agricoltura ha iniziato a compiere verso un futuro più sostenibile. Che la situazione globale sia preoccupante, non c'è dubbio. Che sia necessario trovare misure rapide per far fronte ai pesanti squilibri commerciali ed energetici che ne conseguono, anche. Ma che diventi un'occasione per buttare le ortiche, quel minimo di sterzata alle politiche agricole europee verso sistemi di produzione, trasformazione e consumo più razionali e lungimiranti, no, questo si chiama darsi la zappa sui piedi, o costruirsi da sé la prossima crisi economica e continuare a scavarsi la fossa in termini ecologici. Già che ci siamo, non è che il fatto che i giornali abbiano altro con cui riempire le pagine significhi che il cambiamento climatico si è fermato a osservare le umane vicende. Continua e morde sempre di più. Fortunatamente il Parlamento europeo è riuscito a difendere i contenuti del Farm to Fork e della strategia sulla biodiversità e non ha ceduto alle insistenti e reiterate richieste dei soliti gruppi di interesse economico per nulla agricolo, ma il margine purtroppo è stato minimo, 274 voti a favore dello smantellamento e 289 per il mantenimento, più 20 ignavi dell'astensione. Sarebbe interessante, ma non è questo il luogo, sapere chi degli europarlamentari italiani e friulani ha votato per lo smantellamento. Si è ceduto invece sulle EFA, le aree a focus ecologico, previste dal greening, ovvero quel 5% di superficie dei seminativi in aziende convenzionali con più di 15 ettari, che debbono essere gestite senza fitofarmaci e diserbanti e se ora possono essere coltivate senza limitazioni. Si tratta in teoria di 200.000 ettari, che però già in parte erano coltivate leguminose e in buona parte sono aree davvero marginali per la produzione agricola, quindi poco guadagno in termini di produzione e tanto danno in termini ambientali. tutto da valutare se su aree con basso potenziale produttivo abbia senso spendere in gasolio, fertilizzanti, diserbanti e irrigazioni, sempre che l'acqua ci sia, o se il beneficio della loro rinaturalizzazione non sia anche economicamente maggiore. Ma su qualcosa bisognava accedere ai produttivisti e così le EFA sono state sacrificate. Ma cosa si potrebbe fare per continuare nella via della transizione verso sistemi agroalimentari più intelligenti e lungimiranti e al contempo affrontare l'emergenza? Le pratiche agroecologiche, i loro esempi non mancano, ma provo a descrivere due cose di cui ancora abbastanza si parla, ma troppo poco si fa. Uno, ridurre lo spreco alimentare. Siamo ancora al 30%, ovvero un panino su 3, 2 bistecche su 6, 3 forme di formaggio su 9. Altra cosa, considerare seriamente la produzione locale dei fertilizzanti attraverso un articolato riciclo dei rifiuti. Dal punto 1, tutti noi possiamo fare qualcosa, molto come cittadini, non solo non sprecando a casa, ma scegliendo a monte, ovvero tutti i prodotti già pronti, già confezionati, iperconfezionati. Sul punto 2 anche, banalmente facendo meglio la raccolta differenziata. Ma molto, davvero molto, possono fare gli enti locali e le industrie. E con tutti i fondi del PNRR non sarebbe nemmeno difficile dare un orientamento. Ecco, lì sì, nel PNRR, una revisione in chiave investimento per il futuro, invece che spesa rapida, sarebbe auspicabile. Nella rubrica del vino Roberto Zironi, docente dell'Università di Udine, ci continua a parlare di arricchimento del mosto. Come abbiamo visto, in alcuni paesi dell'Unione Europea è consentito zuccheraggio del mosto. In Italia questa pratica è lecita solo per la produzione del vermut o per la rifermentazione dei vini da destinare alla spumantizzazione. In tutti gli altri casi, per aumentare la zuccheria del mosto, si deve utilizzare o un mosto per ricco di zuccheri, o un mosto concentrato, o un mosto concentrato rettificato. La concentrazione dei mosti è una pratica molto antica. Già i romani la utilizzavano per aumentare la conservabilità dei vini e si otteneva tramite l'ebollizione del mosto. Oggi questa pratica è ancora utilizzata per la produzione di alcuni prodotti particolari, tipo il vincotto o gli aceti balsamici. Mentre per la produzione dei mosti da utilizzare nel campo enologico è proibito l'utilizzazione del fuoco diretto per evitare la caramellizzazione degli zuccheri. Quindi l'acqua viene eliminata dal mosto tramite l'evaporazione sottovuoto per evitare l'innalzamento della temperatura. E si ottiene così un succo con una concentrazione superiore a 50,9 Brix, dove l'importante concentrazione zuccherina impedisce lo sviluppo dei microrganismi e quindi stabilizza il sistema. La concentrazione però interessa anche gli altri costituenti del mosto. E quindi una volta che viene addizionato al mosto da correggere, può portare anche delle componenti non desiderate. Quindi, negli anni 80 del secolo passato, si è messa a punto una tecnica per produrre il mosto concentrato rettificato, cioè prima della concentrazione vengono eliminate tutte le componenti non zuccherine, in modo che il risultato della concentrazione sia una sorta di sciroppo zuccherino. Questo sciroppo poi viene addizionato al mosto da correggere mediante il cosiddetto taglio. Il problema principale è che utilizzare mosti concentrati in qualche modo si va ad alterare la composizione originaria del mosto. Per cui, insieme a queste tecniche, si sono proposte recentemente delle tecniche di autoarricchimento, cioè delle tecniche che prevedono di eliminare una parte dell'acqua contenuta nel mosto povero di zucchero, in modo che si concentrino tutti i componenti utili che sono presenti all'interno del mosto stesso, togliendo soltanto acqua. Quindi è possibile utilizzare tecniche che si chiamano osmosi inversa, tecniche che si chiamano evaporazione a bassa pressione, quindi a basso punto di ebollizione, o anche crioconcentrazione, facendo congelare una parte dell'acqua. Sia chiaro comunque che se uno vuole ottenere un prodotto di qualità, le operazioni di concentrazione dei succhi devono essere fatte in campagna e non devono essere un'operazione prettamente tecnologica di cantina. La natura si risveglia e l'orto di casa reclama la nostra attenzione. A ricordarcelo c'è Sara Bosco. Tra il mese di marzo e quello di aprile le temperature raggiungono valori più miti. Infatti questo periodo si presta molto per l'inizio dei lavori nell'orto, in quanto ci sono molteplici colture da poter mettere a dimora. Bisogna però ancora fare attenzione a possibili ritorni di freddo, che vanno contrastati con l'impiego di tessuto no tessuto o semplicemente cercando di seminare in tunnel piuttosto che in pieno campo. Tra i primi ortaggi che possiamo seminare nell'orto troviamo le patate, un tubero molto presente nel nostro clima e che non necessita di elevate accortezze. prediligono dei terreni ben areati, sciolti e con una buona sostanza organica e richiedono un buon apporto idrico. In commercio si trovano numerose varietà da poter scegliere, che si differenziano sia per il ciclo culturale che per caratteristiche organolettiche e di conformazione. Si può inoltre proseguire con la semina il trapianto di cipolla, aglio, scalogno. Altre colture da poter mettere a dimora in pieno campo sono i diversi legumi come pisello, fava, fagiolino, ma anche ortaggi a foglia come radicchio, lattuga, rucola, cicoria. Per zucche e zucchino la messa a dimora in pieno campo è ancora un pochino rischiosa per le possibili gelate. Altre colture invece che tipicamente sono più estive come peperone, melanzana, pomodoro, anguria, si possono seminare in semenzaio in modo che si accrescano in ambiente protetto e una volta raggiunte le giuste dimensioni vengano trapiantate in pieno campo o in tunnel. Come ortaggi pronti alla raccolta in questo periodo ci sono poche disponibilità, in particolare per chi non dispone di tunnel freddi. Tra i primi ortaggi pronti alla raccolta troviamo sicuramente gli asparagi che aprono la stagione orticola nel nostro territorio. Questo periodo inoltre risulta ottimale anche per la messa a dimora delle erbe aromatiche, sia come semina che come trapianto. Ed ora in cucina con Roberto Zottar per una ricetta quaresimale, ma non troppo. Bigui in salsa, siamo in quaresima e secondo la tradizione imposta al Concilio di Trento anche in tempo di digiuno e astinenza, dove il consumo del cibo e anche la sua rinuncia hanno un valore sacrale e comunitario. Il mangiar dimagro un tempo prevedeva l'astensione non solo dai grassi e dai dolci, ma anche dalle carni e, secondo una tradizione popolare di semplificazione teologica, da tutte le carni degli animali presenti sull'arca di Noè. Ne conseguiva quindi che tutti gli uccelli acquatici, tra cui le folaghe, germani reali e fischioni, erano considerati dimagro. Analogamente erano permesse non solo le rane, ma anche le lumache e perfino il castoro era dimagro perché vive nell'acqua. Un cibo dimagro del Pordenonese e della Venezia Giulia erano i bigui in salsa o bigoli con le sardelle, cioè una pasta tipica condita con un sugo di acciughe e cipolla. Un proverbio veneto recita: ogni vigilia le sempre de quella intolaghe i bigoli con la sardella, e uno giuliano per fare i bigoli che vol sartele, per far l'amor che vol belle putele. L'elemento principe della ricetta sono i bigui o bigoli, il nome va sempre usato al plurale, che sono un formato di pasta che assomiglia ad uno spaghetto grosso con una superficie ruvida e porosa che ben trattiene il sugo. Oggi si comprano già pronti, ma un tempo si facevano a mano in casa con farine di grano duro e tenero e acqua, talvolta anche con orzo e segale per i cosiddetti bigoli mori. Alcune famiglie ancora posseggono il torcio bigolaro, un torchio manuale in bronzo che serve appunto per estrudere la pasta. I bigoli erano talmente di uso comune da essere rintracciati anche in ballate e filastrocche, come nella famosa La mula di Parenzo, dove si canta «Me piasi i bigoli con la luganega Marietta, damela per carità». I bigoli in salsa sono un piatto che originariamente si gustava ai venerdì di Quaresima e alla vigilia di Natale e a Venezia per la festa del Redentore, ma adesso hanno perso la loro stagionalità, come del resto avviene per quasi tutti i piatti della tradizione, colombe e panettone esclusi. La gustosa ricetta ha solo 3 ingredienti. Stufate lentamente in padella con poco olio delle cipolle affettate così da farle addolcire, magari anche sfumando con vino bianco. Aggiungete poi acciughe pulite, diliscate, dissalate e fatele quasi sciogliere nel sugo, versate i bigoli cotti al dente e spadellate per mantecare. Volendo fate tostare un po' di pan grattato che servirà a condire la pasta al posto del formaggio e non dimenticate una macinata di pepe. Buon appetito! Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti, fatta eccezione per la soia. Venerdì scorso, nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14%, è stato quotato tra 38 e 50 euro il quintale, IVA esclusa. L'orzo, peso specifico, 62-65, tra 36 e 37 euro. Il frumento, tra 38,10 e 39,10. La soia, tra 69-69,50. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 17 euro. E la soia di 11,50 euro il quintale. Passando ai bovini del macello, si rileva ancora un lieve movimento delle quotazioni, con le vacche fine carriere di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 3 e 3,50 euro il chilo, IVA esclusa, quelli di seconda tra 2,40 e 3 euro. Mercato stazionario invece nel settore dei vitelli da ristallo, con le quotazioni che accertano i blubelga maschi quotati tra 6,10 e 6,60 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,60 e 1,90, i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia la ripresa del mercato dei lattonzoli di 30 kg, che vengono pagati franco partenza a 3,12 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello si quotano a 1,47 il chilo. Mercato in leggero rialzo nel settore dei foraggi, dove il fieno mazengo di pianura viene quotato da 10,50 a 11 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17,50 e 18 euro, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 9,50 e 10 euro il quintale. Infine, nel settore degli aviconicoli si segnalano ancora scambi molto attivi, con prezzi in salita. I poli a terra vengono pagati tra 1,83 e 1,85 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,51 e 3,55, i tanchini maschi tra 2,28 e 2,30, le faraone tra 3,85 e 3,95, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,32 e 2,38 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 19,20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Tra pochi giorni finirà il mese di marzo. La sua caratteristica meteorologica principale fino ad oggi è stata senza dubbio la totale assenza di precipitazioni, che prolunga la siccità invernale inasprendone i toni sebbene non si siano raggiunti i dati da record. Altro elemento da sottolineare è il gran numero di giornate di cielo sereno. La prima metà del mese è stata decisamente fredda, con temperature di circa 2,5 gradi sotto la norma e con frequenti gelate notturne in pianura. Il mare a Trieste ha raggiunto la temperatura più bassa dell'inverno il 12 marzo con 8,5 gradi. Quest'ultima settimana ha visto bellissime giornate col sole a dominare indisturbato. In pianura le temperature massime per la prima volta nella stagione sono salite ben oltre i 20 gradi, con picchi massimi di 23. Le minime invece sono rimaste spesso basse e tali da determinare un'escursione termica di oltre 20 gradi. Sulla costa l'escursione è stata decisamente ridotta per il mare freddo, che ha limitato fortemente la salita diurna delle temperature. Temperature miti per la stagione anche in montagna, con medie di 6-7 gradi superiore alla norma. Quest'ultima decade è stata quindi relativamente calda ed ha in parte compensato il freddo della prima metà del mese, che comunque rimarrà più freddo della norma. Sull'Europa ora si estende un vasto anticiclone che mantiene condizioni di stabilità atmosferica e aree piuttosto mite negli strati medio-bassi. Da martedì l'anticiclone si indebolirà progressivamente e comincerà ad arrivare aria un po' più umida. Lunedì avremo cielo in prevalenza sereno. Al mattino e poi nuovamente in serata saranno possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa, specie al confine con il Veneto. Martedì cielo da variabile nuvoloso, con maggiori schiarite sulla fascia alpina. Di notte al mattino su bassa pianura e costa saranno possibili ancora foschie o nebbie. Mercoledì sulla nostra regione passerà un debole fronte, più attivo sul centro Italia, e la siccità probabilmente avrà termine. Avremo infatti tempo umido, con cielo coperto e piogge in genere deboli o moderate. Nevicherà oltre 1500 metri circa, mentre sulla costa soffrirà a tratti vento da sud moderato. Nei giorni successivi una depressione scenderà dalla Gran Bretagna e farà affluire sull'Italia correnti sud-occidentali umide, che manterranno una certa nuvolosità e probabilità crescente di precipitazioni. Tuttavia, dato l'anticipo della previsione, si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti. Buona domenica! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Se San Ruperto non la nui, noi uvarannance il mes di lui. Ovvero, se il giorno di San Ruperto, 27 marzo, non ci saranno nuvole, non ci saranno neppure nel mese di luglio. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.